Giappone. Senza essere satura, no, robotica, va bene così. A me sembra un pochettino satura, però non, comunque si capisce benissimo, Antonio, per carità. Infatti ultimamente molti mi sentivano una cosa che non faceva prima, forse che sia anche la parte che se ne stia andando via, comunque aspetta che do una regolata, vediamo un po', guarda se va bene così. Va già meglio, è sceso un po' il segnale, e adesso è stabile a 8, però è migliorata di tantissimo. Aspetta che regolo il mitigin dell'apparato, aspetta un attimo, faccio così una cosa, un assillo veloce, guarda un po', 1, 2, 3... Fallo un po' più lungo. Scusami un po', aspetta, prova, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, vedi un po', se confronto a prima ha migliorato. Va bene, guarda, comunque lascialo così perché va bene, riesco a sentirti molto bene. Non lo sentivi troppo amplificato, sbaglio? Sì, forse sì, se era amplificazione il motivo, sì. Ok, aspetta, guarda un po' se così il segnale ha migliorato. Il segnale è cresciuto tantissimo, 9-10. Perfetto, comunque la radio è rimasta invariata. Sì, va bene, così va bene. Cos'hai fatto? Niente, mi serve un aiutino, una valvola, una solo però, Ma va bene, va bene. Ah, perfettissimo. Gianni! Eccomi qua, no, è vero, mia moglie, stavo parlando con lei. È cosa buona e giusta. Guarda, non si fa... Arami d'otto. Meglio di prima? La verità, leggermente sì. Appaga, va bene. Cosa ci hai messo di nuovo? Nulla, ho fatto delle regolazioni in basso. Ah, niente di particolare alla fine, sempre col Galaxy. Sempre il Galaxy. Non l'ho, diciamo, ristrutturato. Buono, diciamo qualcosa alla mano tua, sì. Oppure gli hai fatto dare una piccola revisionata? Io ho solamente fatto la potenza e basta. Così è. Sempre all'interno con un trimmer, giusto? Hai dovuto aprire il coperchio e regolare qualcosa alla fine e poi niente di particolare. No, negativo. Già va bene, mi ha curato il dottore. C'è una regolazione, va bene, perché prima erano troppo passivo anche li ho messi normali come dovrebbero essere, dai. Adesso ne ha 10, tutti. No, la verità che si dica, diciamo, con la prima tua modulazione quotidiana era bella tranquilla, adesso ti accentua molto l'S, si sente che c'è qualche potenza in più, in modulazione, dunque ha comportato una piccola variazione nella radio, prima molto più perfetta, adesso te lo sento che ti accentua molto l'S, dunque si sente l'amplificazione. Scusate, bianco per me che devo andare a cena. Ci sentiamo più tardi, signori. Ciao, ci sentiamo. Salvato, buona carica, dai. Ci sentiamo dopo. Ok? Grazie, ok. Ciao già, ciao Antonè. Salvato, appetito. Molto accentuati. Ma è molto acuti, molto accentuati. E questo è il saletto che usano col Galaxy. volte che una modulazione ci ho messo che è una manetta. Diciamo, confronto altre modulazioni, diciamo, i bassi, io la parte mia sono quasi inesistenti, tutto acuti, che non è male, lo stesso. Forse ho toccato qualcosa qua, forse, amici. Dimmi se sbaglio, io ti sento così, Con quale paracchino? Io sto usando l'ala 68, sto ascoltando con questo. Già, come lo senti? Acutissimo, confronto alle altre modulazioni. Se non è male, ripeto, non è un'imperfezione. Gianni, di nuovo accesso. Cos'è di nuovo? Accesso, perché lo chiami e non ti risponde mai. Sicuramente ho già mal di pancia. Non ho capito. Certo, che ho chiesto a Gianni a vedere come ti sentiva lui. Poi l'ho chiamato e non ha risposto. Con la saletta e questa c'è così, Antonè, non può uscire diversamente, c'è un vetro, una vetta molto molto acuta, capito? Sì, va bene, quello sono pienamente d'accordo, ma non puoi utilizzare, diciamo, il microfono che giustamente hai tu in dotazione, non ci hai fatto altre prove? No, questo è quello che è in dotazione al Galaxy. Io mi sto ascoltando, è un bel forte come modulazione, e questo c'ha tonalità molto acute. Sì, a me piace la verità, non è un'imperfezione, ripeto, confronto altre volte che ti sento, hai, diciamo, un mix perfetto tra bassi e acuti, con le altre modulazioni, invece questi bassi sono, ripeto, quasi inesistenti, ma non è un'imperfezione, a me piace, va benissimo. Barattolo della pena, siamo finiti, barattolo della pena. Canton de Gerese. Buonasera, ciao. Buonasera, Porto Torres, è ben sentito. Ciao Claudio, ciao a tutti, mi stavo ascoltando ma non potevo prendere perché ero in fase di sorpasso. Capito Antonio, tutto bene? Scusami, sì, no, stavo mandando un'altra radio, dunque ero impegnato a scrivere qualcosa. Cosa. Come mi ascolti qua, che sono in zona Sassari, dai, di movimento comunque sia. Da parte mia c'è un va e vieni, comunque la radio ti posso dare un 4, 4 e mezzo, comunque è comprensibile. Vabbè dai, comunque sia, già va bene, vero? Sì, a voglia, sempre pulito. Sempre la tua modulazione. Un attimino, un secondo, ti richiamo subito. Yeah. Per me, dai! Yeah! Tu nessuno ti ho detto!